80 centimetri. Eh sì, va bene. Vabbè, manca la 30 se ce l'hai vicino, non succede niente. Ma le misure standard sono quelle, non è che... Tutto qua. Chi è che vuole entrare avanti? Faccio schiacciapollo qua, scusate. Faccio schiacciapollo, che mi ha messo le cuffie, vorrei un po'. Capa. Ma che sei Luca? Io. Sì, tutto asciariato, sì. Di modulazione tutto impastato. Ah, guarda qua, faccio spostando qua, no? No, adesso già va bene. Mi prendete che mi ha messo le cuffie a vedere come giostrava. Vai Giulio, vai. Ok, ciao Luca. Sì, no, già sta, adesso già sta andando bene, ma si è entrato un po' così. Vabbè, comunque già va bene. Allora stai parlando dalle cuffie, stai parlando, non dal microfono. Così stai facendo. No, mi sono, io non uso mai le cuffie, ho detto oggi a vedere, mi metto le cuffie e vediamo un po'. E niente, ho chiuso la squelce dall'altro, quello dove c'ho le cuffie, e così mi stavo ascoltando, capito? Però siccome spostando poi qua ho toccato qualcosa e stavo uscendo male, come stava dicendo Claudio appunto. Va bene, cappa. Questo è il MC60? No, sono il 20, qua. Ai, ottimo, va bene. Avanti Bruno. Scusa un attimo, qua non ce l'ho più, è 60, già lo sai. Ah, è vero, scusa, mentre a me la sta di maldito, fammi sentire il cappa, non ce l'ho. Va bene, avanti Bruno, no, lascia così, che stai andando bene, però non lo sollevare molto se non è troppo, sempre quelle solite regolazioni. Avanti io, Bruno? Ma, senta, non sarà successo quello che stava dicendo poc'anzi, no, che sta bruciando, forse sta controllando le stazionarie adesso, e che lo sa, vabbè che dai, riprenderà, oppure si è assentato un attimo, è andato a cambiare l'acqua alle olive. Sì, Luca, lascia così il microfono che va bene, a quel volume va benissimo, è bella la radio, il russo. Ma te l'ho detto dalla volta scorsa anche che quel microfono lì andava benissimo, sì che non c'è problema. Vai Luca. Mi lascio così, cappa. Devo dire una cosa a Claudio, un momento viola. Ah vabbè, dell'altro che non ce l'ho più. No, poi qua stamattina mi sono visto appunto con Claudio, gli ho restituito il suo, che gli avevo fatto l'attacco per l'altra radio, e gli ho restituito lo Shure. Sicché adesso c'ho le 720, l'M500 e il Sadelta Master Pro. No, va bene, ma se quella radio te l'ho detto io, va bene l'SM20. Ci va bene il 60 col connettore ICOM e poi ci va bene l'SM20 che è il suo microfono, capito? Non c'è problema, stai andando benissimo, però non lo aumentare molto, sennò diventa troppo alta e vai a strappare, capito? Avanti Giulio. Ok Luca, si sta detta qual è, come quello che avevi ordinato per me, quello col gambo che si piega, quello Master Pro, ecco Master Pro, oppure solamente quello rosso, quello con le fiancate rosse, che anche quello poi tra l'altro il gambo si piega ugualmente. Grigio con i tasti rossi, capito? Con i tasti rossi, che c'ha la lucina, il modulometro, quella roba lì. Come quello che ho io, che ha il microfono, cioè il gambo del microfono non è il solito, la solita assa così, è una cosa larga, sarà 4-5 cm, è piatta, e poi quando lo abbassi diventa su direttamente sulla base, così? Esatto. Ok, quello che avevi ordinato a mettere, ricordi? Che io ce l'ho quello, solo che l'avevo messo a parte, che andava bene, e adesso non ho. L'avevo provato la volta scorsa, non lo so se avevo messo bene la batteria, ma suppongo di sì, o se non era carica abbastanza, perché quando accende, anche se non è attaccata al baracchino, quando schiaccia la portante si accende lo fioncino, cioè il LED si accende, perché significa che il microfono va bene, e anche il modulometro funziona senza essere attaccato al baracchino, confermi? Esattamente. Infatti il mio non funziona più, strano però, perché io quando l'avevo messo dentro il cassetto, poi dopo qualche mese l'avevo ripreso e non accendevo più il LED. Sarà, o si è bruciato il LED, perché magari quello funziona anche da diodo di continuità, e probabilmente può essere quello. E dunque le dovrò dare un'occhiata, ma non mi interessa più di tanto, comunque ce l'ho sempre, nuovo. Avanti Claudio. Claudio non riprende, Bruno ci sei? Nemmeno Bruno riprende, evidentemente hanno da fare tutti e due. Sì, così, penso che sia così, a meno che non è partita qualche resistenza o qualcosa del genere, non so cosa dirti. Poi io ho anche l'altro, quello col gambo cromato, sottile, e con le fiancate della base rossa, ho anche quello. Però anche quello è il PTT che non funziona, cioè l'interruttore che c'è dentro, quando schiacci non fa tutti i contatti, perché non lo so se si trova a cambiarlo, ma qui non credo assolutamente. Comunque andavano a testi, ho l'MB4, funziona quello, poi già ho il 60 al limite, poi ne ho anche qualche altro, perciò già va bene lo stesso. Ma non mi mancano lo stesso i microfoni, vai Luca. Ma infatti, che cosa te ne affrutti? Importante. Io ho l'M600 anche. L'M600 è un buon microfono, ma quello è stato sempre un buon microfono, capita. Altro che l'M600 abbinato alle vecchie radio di una volta funzionava, che era una meraviglia veramente, capita. Adesso non lo so se va bene anche con la radio che stai usando adesso, però l'M600 era un gran bel microfono veramente. Sì, vediamo se entra qualcuno, io lascio sempre un po' di bianco. C'è qualcuno, avanti? Ehi, tutti in stand-by sono, non c'è nessuno, dai. C'è la Usilo, poc'altro, ha chiuso. C'era Bruno, non so se l'avevi sentito, ma suppongo di sì, che aveva problemi di microfono anche lui, ma era lì nella piazza grande e si era fermato lì per modulare, ma poi è sparito. Vediamo se c'è Bruno, ci sei? Niente da fare. Claudio non c'è bisogno di chiamarlo, già rientra quando deve rientrare, quando è disponibile già entra lui, non c'è problema. Avanti Luca. Claudio. Andave. Ehi, mi stava dicendo Bruno che si è comprato la boomerang, che si è comprato, se ci sarà alta 2,20 2,50 all'incirca, forse 3 metri. E se la piazza a casa, magari nella finestra, dovrebbe uscire lo stesso discretamente, e così può sentire in maniera decente, dai. Perché dalla macchina con la mini antennina non è che ha un granché di trasmissione, e suppongo anche di ricezione, perché così in effetti c'è da fare sempre, il discorso è sempre quello. La trasmissione e la qualità della radio è sempre subordinata alla lunghezza fisica dell'antenna. Se hai antenna, andi bene, se non hai, meglio mai te. Avanti tu. Infatti. KK, adesso sono in costruzione di una skipper, ma la metterò ben poco, capito? Giusto per fare qualche prova, e poi quando ci sarà la propagazione, perché è un'antenna molto ingombrante. Vabbè, comunque il posto tu già ce l'hai, sempre quello, poi per sperimentare già fai bene, avete considerato, poi magari quando l'avrai perfezionata ci può essere anche qualcuno, tu la proponi e ci può essere qualcuno che la richiede, perché no? Non c'è da meravigliarsi, avete considerato che sei attrezzato le varie strumentazioni proprio per queste cose qua, va bene così. E poc'anzi stavo guardando un video con uno di quegli strumenti che hai tu per VEU, no? Quel coso, analizzatore di antenna, e questo stava facendo l'antenna, e l'ha fatta, non è che non l'ha fatta, l'ha fatta da uno, presente ce l'hai quelli specie di attaccapanni che vendono nei negozi, quando tu compri ad esempio un pantalone, una giacca, un maglione, che ci sono quegli attaccapanni, attaccapantaloni, come si chiamano, le cruce, come l'accidente si chiama, non me lo ricordo, di ferro, e ha preso due, l'ha tagliato e ha fatto un'antenna V e U, ha fatto, attaccata a un pezzo di cartone, e poi l'ha inchiodata ad una trave di una veranda in legno che ha, e ho visto che stava funzionando, perché no, un pezzo di blu ferro. Infatti, aspetta che ti sto cercando quella roba là. Cerca. Già sono qua io, dai, cerca. Vediamo se è rientrato qualcuno. C'è Bruno, si è rientrato, o Claudio? No, vabbè, dai, cerca. Quando sei disponibile chiama, o Luca. Chi era questa portantina? Avanti, chi era? Avanti questa portantina col fischietto. Sono andato giù. Ah, ecco, sì. Adesso la guardo, Luca. Stavo dicendo. Ho visto anche un inno Itti 294, quella di vecchia data, il vintage, la base, color rouge, eccetera, l'ho visto, 120 euro lo stanno vendendo. Poi ho visto altre baracchini anche, addirittura c'è gente che vende 250 euro il Saturneco, poi c'è gente che lo vende 350 e c'è gente addirittura che lo vende 750, pazzesco, 750 euro più che spendo per comprare un Saturneco, non sarà mai qua vero che sono. Eppure c'è qualcuno che lo fa. Sì, ma sicuramente riesce a venderlo, quando trovi l'amatore, ma non sono certo io l'amatore che spende 750 euro per quello, io mi auguro che lo venda, è buon per lui, ci mancherebbe altro, no? Sono contento per lui, però io massimo un Saturneco potrei pagarlo, come la penso io, massimo 200 euro. E che sia in buone condizioni anche, perché suppongo che il prezzo sia quello, ma non 750, a me non mi interessa pagare una cifra solo perché un baracchino vintage, tu mi dirai, ma vale perché è vintage, certo vale perché è vintage, perché gli fai il prezzo tu, e tu sei padronissimo di venderlo al prezzo che credi, ci mancherebbe altro, nessuno ti contesta niente. Ma c'hanno i suoi anni sempre, non sai in quanti anni sono passati, boh. Casino è quello, capito? Casino è quello oggi. Sì, beh certo, in effetti il problema è proprio quello. Quando tu pensi io di quelle baracchini negli anni passati, negli anni 80 ne avevo fatte arrivare addirittura due. Uno l'avevo ordinato per Gio Maria, e uno per cosa, Giovanni Ciclone, buon'anima, l'avevo ordinato per lui, sicché, e costavano allora c'era la lira, e costavano 749.000 lire, costavano, me lo ricordo come se fosse oggi. Era una bella radio, indubbiamente, mentre invece quello turbo costava 1100, una cosa del genere, turbo, ma il turbo da 100 watt. 1.100.000. Un milione e cento, sì, esatto, 1.100.000, non 1.000, cioè, adesso ormai sono abituato all'euro anch'io. Sì, prima costava, quello normale, Saturneco costava 749.000 lire, costava, io ne avevo fatte arrivare due, ne avevo fatte arrivare, uno a Gian Maria e uno a Giovanni Ciclone, mentre invece il turbo, Saturneco turbo, quello lì costava 1.100 circa, 1.070, una cosa del genere. Ecco. No, 1.000, 1.070.000. Avanti Becco. Sono rientrato, purtroppo adesso casino, sto strappato un filo qua, sono giù, non riuscivo più a attaccarlo, adesso sono riuscito a appoggiare il filo così perché ho l'attacco volante all'accendino della macchina. dunque sono salito per quello, ripeto. Ah, ok, Bruno, ho capito. Stavo dicendo, Bruno, stavi parlando di Roosevelt, no? Che non hai misurato niente, dice, ma non è che ti ha bruciato a dirlo, che l'avevi finacciato, così, sto scherzando chiaramente. E mi sono con Luca Flipper, ti mando avanti Luca per Bruno. Infatti anch'io ho detto, Bruno, è sparito Bruno, ciao Bruno, buonasera. Ciao Luca. Sai cos'è? Sto sperimentando, prima avevo il microfono a brinche, adesso cosa è successo? Siccome è tutto volante qua, ho attaccato due tiri alla fare, ho comprato un attacco e ho attaccato un tiro, ho visto due giorni che prendo la corrente da lì, perché questo baracchino è tutto non sta fermo, ma sale e scende a casa. Adesso mentre stavo maneggiando ho strappato un filo, adesso sono riuscito piano piano a così a isolarla appena a mettere, perché c'è il positivo vicino al negativo, dunque mi ha dato una scintilla. Allora, ok, d'accordo, stiamo facendo la macchina, tutto a posto, riprendi giù. Ok Bru, vabbè, sei attento per quello, non si sa mai. Perché sembra così, ma alle volte magari puoi avere il tappetino di quelli di cosa, come si chiama, di fate la petrochimica alla sera a base di petrolio, e la scintilla potrebbe fare un problema. Io mi ricordo, Bru, qualche anno fa mi sono messo con la voletta a tagliare un pezzo di ferro, l'ho messo per terra, no? E avevo uno di quei pantaloni da lavoro, no? Deve essere roba costruita da sera a base di petrolio, che ne so. Beh, tu lo cercherai. Mi si sono accese le cose, la parte finale del pantalone mi si è acceso con le scintille della moletta. Vabbè, era un pantalone da lavoro, con le mani stesse l'ho spento, non è che era niente di particolare, ma intanto per dirti, no, prende fuoco subito, e secondo che materiale usi, secondo che fibra hai vicino, o Bruno, dai, riprendi e fai girare poi per Luca. Sì, ma guarda, senza andare molto lontano o giù, forse che tutti che stiamo usando noi, ma tutti derivati dal petrolio, perché se tu il file, o comunque adesso ti bisogna un look, sono derivati dal petrolio, figurati che uno, non lo so, un giorno stavano spiegando che per fare un pantalone si usano 10 bottiglie di plastica. Vedi Luca si è sentato, dai Luca, dai, si è sentato, già ritorna. Sì, ma è così Blu, appunto stavo tagliando una gaffa, per la mandronia di non metterla nella morsa, l'ho presa e me la sono messa sotto il piede, no, me sono messa, tu me la taglio così, tanto un attimo, è una gaffa da niente. E le scintille della mola mi ha incendiato il pantalone. Va bene, era il pantalone che usavo da lavoro, in falegnameria, ma niente di pantalone bruciato, ma muore lì, poi comunque me l'ha acceso, dai, me l'ha acceso la parte, le gambe della finale del pantalone, proprio perché sono fatti dalla petrochimica. Vedi, infatti, come hai detto tu, dal petrolio, tutti i materiali, per carità, fra un po' fanno anche le bistecche dal petrolio, Bruno. No, ma guarda, non si deve avere a vigliare, però non si deve avere a vigliare, guarda che stanno già pensando, non si deve avere a vigliare, non si deve avere a vigliare, non si deve avere a vigliare, perché ormai è molta di quella roba che stiamo mangiando, stiamo già vendendo, noi non sappiamo più, non mi dico. Perché arrivano tutti questi problemi che abbiamo, la stella, qualcosa, ci stiamo già arrivando in mania. Tutte queste bibite, tutte queste cose che ci fanno vedere. Mi sento giù. Sì, va bene tu. Non vedo niente, perché sono tutte sostanze chimiche, fatte in laboratorio. Perché io guardo quei programmi scientifici e un giorno hanno fatto vedere che questo laboratorio dove c'erano 20, 30, forse 50 bottigliette di liquido, tutte bianche, acqua trasparente. Come potrebbe essere tutto acqua? Chiamavano la gente e diceva, lì era facile assaggiare questo liquido, che sapore ha? Lo colato, che sapore ha? Miele, che sapore ha? Erano prodotti chimici, perché quando mangi la merendina, laddove c'è scritto agrumi e cose, non vedo niente, mi sento sbagliato, il gusto lo danno chimicamente, perché figurati se dovessero mettere in commercio una lattina di aranciata che costa 30 centesimi e dovessero metterci veramente l'arancia dentro con quelle sostanze, costerebbe minimo 3 o 4 euro una lattina, ma è vero che i prodotti buoni costano. Per cui chissà cosa è giusto, si vanno nella mia nome, è tutta roba chimica. Sì, ormai è così, lo so. Io tante volte guardo quel canale, canale 59, soprattutto la mattina. La mattina ti fanno vedere la lavorazione di vari materiali e anche di alimenti, di igiene, di alimentari, eccetera. Come vanno fatti, come vanno scatolati, tutto questo che vuoi, in maniera industriale, guarda. C'è da rimanere incantato. E poi poco poco, se pensi, come stai dicendo tu, noi dobbiamo mangiare certe cose perché sono derivate chissà da quale mondetta che viene derivata. Oggi non c'è da meravigliarsi, anche guarda, oggi l'umido della mondetta che ci ritira il governo, il comune, quella poi fanno del combustibile e viene utilizzato come combustibile, magari anche per le macchine potrebbe essere, chi lo sa, per tante cose. Purtroppo è così, per non parlare poi della carta, per non parlare di qualsiasi altro tipo di materiali, i rimasugli del legno, ad esempio, la segatura, tutto lo scarto proprio di corteccia, di cose, eccetera, che possono fornirti gli alberi, loro li prendono, li micciano, li macinano e poi fanno dei pannelli. Fanno del pellet, fanno insomma tante cose che poi noi non sappiamo nemmeno, magari sono poi mischiati con altri prodotti, perché ad esempio il pellet, tanto per fare un esempio, si sente l'odore di qualcosa di infiammabile, perché ha un odore un pochino aspro, io lo dico, io lo considero aspro come odore, sembra un vernice, sembra, ecco, che sarà mischiato anche con certi additivi per poter funzionare. E così poi i pannelli, lo stesso, i pannelli te le fanno con della colla, chissà che tipo di colla ci mettono, e ti fanno i pannelli truciolare, oppure magari anche i compensati, insomma un po' tutto, ecco. Oggi si utilizza tutto, utilizza la mondetta, si utilizza, figurati, qualsiasi cosa oggi si utilizza, bro. Soprattutto il pericolo è soprattutto quei materiali composti, i titolari, perché lì ci sono colle, ci sono un sacco di materiali che si sa, poi facevano la morte, io ho avuto il camionetto per 50 anni a casa, e ho bruciato di più, ma se mi trovo chiaro che devo mettere la legna, quello che trovavo in effetti, io che trovo la tavola fritta era anche bene. Una volta che sono materiali già lavorati, roba vecchia, e allora, sì, e io ho usato in campagna, e fatto la roba rosso, sto usando la legna invece di quello vecchio. E ho incoscienza, la mia dieta, non è incoscienza, però che ci sono tanti fa, non ancora, perché perché io non se ne parlava, era la normalità. La figura di cosa avremmo ritirato noi, cosa ne ho ritirato io all'officina, quando lavavo i tetti con quei materiali, erano dei solventi, che poi avevano bandito la situazione, infatti, con legge, dei solventi, tutto il mio tetto del motore, la testa che ho fatto da 50 anni, tu li prendevi, delegavi la sua testa di ferro, li mergevi dentro questo bidone, e tu lo tiravi fuori dal soffetto, la pedestrina, la bianco. Infatti noi, io mi ricordo, ragazzi, quando ci fermavamo nella macchina, non riuscivi a respirare, piccato, che non hanno tutti altri. Fanno male se sono più lunghi, ma se è più controllato. La fila della gola, la fila è venuta più qua, abbiamo dato un sole, fa male lo stomaco, quasi primo, ci siamo pranzati, si è. E poi adesso mi sentite, poi tutte le mappe, noi, noi camminiamo nella strada, nella strada, ci sono vestiti, poi tutte le mappe, dei freni, delle partite dei freni, tutte le cose le faccio la mappa. Perché poi si levano, si vengono addosso e poi si riappoggiano, poi faccio un'altra macchina, salta, si impara e tu stai camminando e respirando, perché no? Perché così è. Sì, ma è così, infatti oggi i materiali sono nocivi in una maniera impressionante e devo dire che non c'è protezione di maschere eccetera che valgono, perché prima o poi lo senti sempre l'odore oppure le polveri eccetera, non, tu immagini già Dio, ha giocato oltre 50 anni di falegname, tante tonnellate, no quintali, no pacchetti, tonnellate di più, ma non mangio mangiato. Arrivavo a casa che ero già sazio della polvere, per dire, no? Perché tutto il giorno con la maschera non è che ti può tirare, assolutamente. Poi non ne parliamo quando si verniciava, l'isolazione delle vernici, eccetera, è ovvio, quando sono talmente nocivi che uno oggi, sì, anche se oggi ci sono certe attrezzature, tu prendi un verniciatore di auto, oggi va bene, c'è la camera da sfrusto, eccetera, tutto quello che vuoi, con tanto di attrezzature, di aspiratori, eccetera, però sei sempre in mezzo alla vernice, perché non è solamente il fatto di respirare, ti entra nelle orecchie, ti entra nel naso, ti entra negli occhi, dappertutto insomma, sono tutti solventi micidiali che fanno male, purtroppo il lavoro lo devi fare, lo devi eseguire se vuoi campare, se no muori prima di l'ora, il discorso è sempre questo, bro. Lo sappiamo, oggi ci sono tante cose, ma tante, però tutto è nocivo il mangiare, oggi è nocivo anche il mangiare, se dovessimo analizzare veramente a fondo tutto come viene composto, anche no, il mangiare, le bevande, un po' tutto, fa male tutto oggi, e magari in piccolissime parti, però anche quello fa male, o brutto. Vabbè, quello pure, ci stanno dicendo di non mangiare carni rosse, la carne l'abbiamo già tolta la vita, cosa dobbiamo pensare, boh? Ci stanno dicendo di mangiare più verdura, abbiamo anche le verdure che non ci sono, ma noi non li guardiamo la verdura di carriera, e non si dice mangia la verdura, ma se tu la verdura a me mi ne la butti, da quel paese, tipo la Cina o che fosse là, dove non sono controlli, però che noi abbiamo dei controlli, specialmente a parte i controlli europei, vabbè, ma specialmente in Italia, noi siamo molto severi con tutte le cose che mettiamo sui balconi, perché sono tutte cose controllate, ma poi vai, compri la roba, che l'ho fatta, che arriva, dalla parte del mondo, non sai, questi pomodori che stanno arrivando dalla là purtroppo usano quei prodotti che noi usavamo 100 anni fa a dare sulle piante, a quella gente lì non gliela frega niente di usare queste polverine che si danno per trattenere, per mantenere la mela, perché sennò in tre giorni si marcisce. Io non lo sapevo, nelle celle prime, quelle mele le mettono lì, quasi ci sono di prima, sono verdi, non mettono queste polverine che sono delle sostanze pericolosissime. La sorella, infatti, se tu compri la mela tutta da casa, non si sa campagna, ti mangio in campagna, chissà, allora le mele di campagna io le prendo, le metto sul portafrutta lì a tavola, e dopo 10-20 giorni, si va in Svea, da tutta la Pogarese, ma non marcisce, le mele del supermercato, tu le prendi, l'indomani la metti lì, ed è marcia, perché sono stati 2-3 mesi, magari le metti di più. Chissà cosa hanno i busti, come gambedone, la polverina che metto i gambedoni. Però mangiate, mangiate, mangiate, tanto me, o muore di rap, o muore di drone. Vediamo se qualcun altro vuole rientrare. C'è qualcuno che vuole entrare? No, scusatemi, ma io ho avuto un attimino una telefonata e non potevo avvisarvi se non sovramodulavo. Scusate se mi avete chiamato, non ho risposto, saprete che non è mio coso lasciarvi così, però per il momento adesso vi saluto perché mi preparo per portare il cane. Ciao Bruno, piacere averti ascoltato, ciao Giulio e ciao anche a tutti gli altri, se ci siete a dopo, altrimenti a domani, ciao ciao. Ok, ciao Claudio. Sì, e beh sì, perché sono già le 8:15, per cui sicuramente fra un po' mi chiameranno anche a me per la cena, per cui ci sentiamo domani. Ciao, grazie comunque per la chiacchierata, ugualmente non c'è problema, ma l'avevo capito che sicuramente eri al telefono, lo so benissimo come ti comporti, non c'è problema. Avanti Bruno. Sì, ok, ciao, ci sentiamo, a domani, altri giorni. Vabbè, comunque, anch'io dopo il ritirato, devo scendere a casa, poi devo passare un attimino, fare una strada per il canale, sto cercando Marino, quando lo cerchi non lo trovi mai, non ti vedi, una cosa, non l'ho più sentito. Chiamalo sul canale 23, Marino tante volte è sul canale 23, anche se non lo senti, chiamalo che alle volte è in ascolto e magari c'è lo stesso. Se devi fargli qualche messaggio, qualche ambasciata, già ti risponde, non c'è problema. Se non gli fai lo squillo, così sei sicuro di trovarlo. Ma non so, sempre avuto il telefono di Marino io, però ho perso la rubrica al telefono, perché il telefono mi era andato in chiesa, ho cambiato il telefono, e dunque non credo più. Però avevo scritto una rubrica, cioè in qualche azienda, che non ho scritto, per studiare. Sì, perché mi ha detto una cosa, grazie. Da tanto tempo, l'ho conosciuto tramite Palacina, ma io, quando la via ancora battavo nei grossi, poi la via per 13 anni, tu. Infatti. Quasi 50 anni fa, non è ieri, no? Quasi 50 anni fa, Bru, che ti puoi immaginare, quando abitavo nel Monte Medio, sì, era dietro bottega praticamente. Io da allora con Marino lo conosco 50 anni, più di 50 anni lo conosco Marino io. E poi te lo chiamo io sul 23 un attimo e vediamo un po' se c'è, te lo faccio passare qua. Va bene? No, è una cosa, Sì, beh certo, tutta la famiglia, infatti ci sono ancora dei fratelli lì, che hanno anche l'attività di lavoro, eccetera, lo so, io lo so benissimo, per cui la via non me la ricordo, via Vinci, una cosa del genere, lì dalla Feroce c'è l'attività del fratello, o chi è. Sì, lo so, non c'è problema, vabbè, io te l'avrei dato, ma non ho il tuo io il telefono, per cui se no mi costava poco, mi mandavo subito un messaggio a Marino e chiedevo, posso dare il numero tuo a Bruno, e te l'avrei dato io direttamente, ma siccome io non ho il tuo numero, allora non è possibile, non è fattibile questo discorso. Thank you. bianco, perché si vede che stavano un po' più grandi, perché non lo fai mancare, perché non è facilissimo. Quasi. Io buio in frequenza, tu c'eri prima di me in frequenza, perché tu hai tempi di Costanzo, Orazero, Antonello, eccetera. E io il primo che avevo conosciuto era proprio Antonello, il fratello di Costanzo. E voi ce l'abbiate già. Io buio dello 72, ti puoi immaginare, 49 anni. Che voi almeno 50 anni ci siete da 50 anni a questa parte a frequenza, tu, tuo cognato, anche Aldo, tuo fratello e tanti altri, Costanzo lo stesso, Costanzo ce l'ha l'attrezzatura, il baracchino, Costanzo so che ce l'ha, era quello del suocero però, che l'aveva preso, aveva ereditato la stazione di Ancora, ti ricorderai di Ancora, che era il suocero di Costanzo, che purtroppo è morto, il padre della moglie di Costanzo, te lo ricordi Ancora? Che usciva in maniera meravigliosa, si aveva costruito l'antenna, lui ce l'aveva attaccata alla ringhiera nel poggiolo lì, nelle parti del Sacro Cuore, ti ricordi bro? C'è andato in Alessia, diciamo, anche l'angolo con la casa, già lo so, già l'ho conosciuto, poi sta anche a me, io ho fatto anche a matrimonio, importante. Invece Antonello, Antonello Norton, Antonello abita, che fate a casa? Ma questo di fronte che sono attaccato, io ho trasferito da poco, lui abita in italiano, mi sono andato. Con Antonello lo stesso, Antonello Costanzo, è stata la greppa, allora diciamo che da tutto quel periodo. Io sono entrato con Sovellai, perché il Sovellai è stato finito, lui tramite lui chiaramente, andando in questa caricatura, ero minorenne e mi ricordo che la concessione, nel 74, la concessione, l'aveva fatta mio padre, da nome suo, per questo Sovellai. Qualcosa del genere di ricordo, forse anche prima, e poi no, ero già maggiorenne a questi, dunque ancora prima del 74, vabbè, riprendi, faccio un'altra battaglia e poi mi ritiro giù. Sì, Bru. Sì, ma è così, prima del 74, te lo sto dicendo, nel 72 sono entrato io, voi ce l'avete già, io sono entrato nel febbraio del 72, cioè che 49 anni fa, ho compiuto 49 anni questo mese praticamente, e voi ce l'avete già, voi minimo siete entrati nel 71, perché eravate ancora prima, qualche mesetto prima di me, se non addirittura alcuni mesi prima di me. Io me lo ricordo benissimo questo particolare, Bruno, per cui se te lo sto dicendo, io allora in quel periodo avevo un Tokai 6 canali, ed ero salito lì a Montarosello, dove ci sono lì i giardinetti del Montarosello, dove abitava Costanzo, dove abitavano loro, che erano ragazzi. Cosa avranno avuto? Avrà avuto allora Costanzo, avrà avuto se no 14 anni, penso, una cosa del genere. Il primo CB che io ho conosciuto è proprio Antonello Norto, con Costanzo allo stesso tempo, ed eravamo di sera, la notte, quando avevo chiuso in bottega, mi sono fatto un giretto lì a Montarosello col baracchino, ho sentito Antonello, mi ha detto, ma sotto casa? Sì, sono sotto casa perché mi trovo qua, allora aspetta che sto uscendo. Ed è uscito Antonello, la prima persona col baracchino che ho conosciuto è proprio Antonello Norto. E dunque ti stavo dicendo, Costanzo ce l'ha il baracchino di Ancora, però ha anche il microfono, ha anche un bel microfono, che è alterne più tre, però non te lo dà, non te lo dà perché un ricordo del suo ce l'ho, buon'anima, capito? Io gliel'avevo detto, me lo vendi? Fatto, no, è un ricordo del mio suocero, non te lo posso vendere, capito? E allora piazzalo, così parliamo. No, non le piazzo, non le piazzo più, infatti non l'ha mai piazzato. Tu lo sai dove abita quest'altro, no? Abita lì nella zona dove lavoravo io, nella stessa strada. Io gli avevo fatto la veranda, gli avevo fatto una veranda grandissima, perché lui abita all'ultimo piano e dunque ha una bella veranda che gliel'avevo chiusa, tutte le legname, tutta eccetera eccetera, chiusa proprio, poi gli avevo fatto anche la scala che sale alla mansarda, insomma le avevo fatto diversi lavori, anche lavori alla casa che ha a Platamona, lì al mare, anche lì gli avevo fatto, se ricordo bene, i portelloni o qualcosa del genere. Insomma, Costanzo, gli ho fatto tanti lavori io a Costanzo, grande persona, veramente in gamba. Poi ci vediamo ogni tanto, quando ci vediamo siamo contenti, sia io che lui. Vai, Bru. Sì, no, io già li presento, perché magari sono l'abito della stessa casa. Sì, ma anche io li ho conosciuti così a loro, perché abitando io abitavo lì a Giardini. Col baracchino, 506 ettari, non mi ricordo, toccai sui canali portatile. Anche io ero a Giardini, l'ho conosciuto tramite questo portatile che avvenne. Lui, sicuramente, avevo comprato un parte sui canali. Ma prima avevo toccato i portatili sui canali. E vabbè, c'era tanta gente di qui. E poi avevo conosciuto Angelo Mello, da Minerlo, allora sono andato in progetto. Va bene, giù. Ci sentiamo, faccio un attimo a vedere se qualcuno su 23, vedo se c'è Marino, che per il su 23 perché mi metto un movimento e poi devo rientrare a campo. Ok, continuiamo la chiacchiera fino all'altra volta, mi ha fatto piacere. Ok, ciao Bru, ci sentiamo, dai, grazie per la chiacchieratina. Sì, anche Mello, poi Angelo Mello veniva sempre in bottega, ragazzino col pony a tracolla, con la borsa che si aveva fatto, tipo militare, e veniva sempre da me. Non so se l'avevi saputo, Angelo Mello è morto, già un paio d'anni, se no anche di più. Io l'avevo scoperto dal computer, l'avevo scoperto, lui era diventato vice commissario della polizia italiana, era deceduto, si era ammalato e deceduto. Tutti gli anni, tutte le volte che veniva a Sassari, da casa della madre, veniva da me a salutarmi, ma questo risaliva a tutti gli anni, ma lui un male ci mancava, ormai 35 anni a Sassari. Va bene, ciao Bruno, alle prossime, ci sentiamo, ciao. Ok, sì, già ho fatto, non so che cosa, ok, ci sentiamo, ciao. Hola, che avanti, capo, mi sono appena tornato a casa. Ci possiamo sentire dopo che l'ho arrugginito, ma sto uscendo normale, ti sento basso. Capo, appena accesa sono arrivato a casa, metto la padella. Hola, attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Andiamo, che è? Bobbo! Ebbe Luca, buonasera! Luca! Aspetta tu, ciao tu, lascia un attimo! Veglia! Ora! Andiamo! Non si sente il tocco del microfono? Veglia! Si sente Luca? Veglia! Trappa di andare! Già si sente che è un 60, si sente! Gabba! Uia! E beh! Sbagliando? Allora, tagliando alberi. No, ho fatto tagliando i library ieri. Allora, stato arrangiati. Sta aiutando mio suocero. Capo, giovani sono. Giovani, 77, mio suocero, 70 la mia suocera. Già sono giovane, cioè, giovani no, però, dai, già, sono ancora in salute. A voglia. Poi la stiamo ricribati qua giù. Tutte le mani spaccate. poi tagli il legno, quelli che d'altro. Vabbè, andiamo piano. Se c'è una carrozzina da un chitarregna. Sì, più di una. E allora ci andava, là. Mi sa vedere, cazzo. Ecco. Raga di spray per raga di mani. Come fatti? Cioè raga di alle dita. Per raga di... Cosa fai? Non raga di alle dita. Cosa c'è questa goccia? Sì, ragazzi, sì. Spacchi nelle dita, ci ho mica capito. Si chiama un ragazzi. Infatti questo qua a me, ecco, quello che c'ho io. Uguale. Spicci il cazzo. Andiamo, andiamo. Ebbene, buonasera. Che c'è in mare in Franco? Andiamo, andiamo. O è Claudio o è Franco? No, o c'è Luca. Tutti 9.40, gente, quindi no. Non riesci a comprendere che è una che è l'altro. Comunque io già c'era una soluzione, Lu. Per che cosa? Quando è un gaggio e ti basta tutto. Attenzione, binario 10, ascoltate il doppio rum, cambio. Avanti Gianni. Ecco, buonasera a tutti, dai. Buonasera. Gianni doppio rum. Con chi sei, Antu? Con Luca dal Monte. Cavagava, ciao Luca. Io sei fatto già. Ciao, ciao. Capo, ti ha salutato Luca. Come sai cosa hai combinato già? Perché Antu? Tu sei mezzo bimpante, sei un bel foce. Vabbè, con le cose sono col collo. 9.40, sì. Buona, buona. Col Cobra S. La Puglia che va bene. Andare, dai. Io vi stavo ascoltando, sto facendo roba, dai. Continuate voi, buonasera a tutti e due. Sì, capo, buonasera già. Ti volevi trattenere, non è un problema. Ciao già, cosa stai facendo? Ciao. Uno a noi. Via. Lì andava. Regare, che ho arruggito, Dulce. Sembrava il segnale di Muros. Avanti. Ah, è rumagnato, vai. Sì, sì, aspetta un attimo, tu. Devo assentare 10 minuti. Questo c'ho un PC acceso. Siccome si sta spegnendo, però ancora è acceso. Devo vedere una cosa. Arrivo subito. Sì, vai, vai, non c'è problema. Cucù! Ci si può rigarà una palla del genere, io mi scudo a terra. Vabbè, c'è nessuno in questo canile. Claudio, ci sei? Attenzione, 10. Ti ho sentito poco fa, ma ero giù, ero. Ehi, cosa, Anto? Sto guardando la partita. Kappa, infatti ti ho sentito, ero io, vero? Ehi, ehi, vabbè, già sono qua. Kappa, come ti andendi? Come ti andendi? C'è due minuti. Su cazzo di Bentancourt ha dato la palla indietro a Shakespeare per rilanciarla. Se Drummond non ha pigliato la palla che c'è dell'aeroporto e se la butta in porta. C'è una palla regalata, un gol regalato. Se si può giocare che livelli. 1-0 sta perdendo. Bravo. La Juventus c'è oggi, vero? Sì, Porto Juventus. C'è Drummond. Bentancourt, centravanti, centrocampista della Juventus. Ha dato la palla indietro al portiere, il portiere l'ha fatto in tempo a prendere e ha rifatto un attaccante del Porto e l'ha buttata dentro. Tessuga, per carità. Ingenuità proprio, cazzo. Non riesce a comprendere le squadre. Vabbè dai, vediamo, è lunga la partita, a dopo. Preia, ok, ti sei buttato un ranchino per la televisione. Cosa tu? Sono anch'io mi devo buttare la televisione. Ehi, ehi, ehi. Arriva tu, vai, vai tranquillo, guarda. Ehi, io sono qua, dai. Che è? E capo, io chi? Chi l'ha ruggito? chi sei? Eugenio Laporo Torres? Buonasera Eugenio. Come va? Sto bene? Mattorio sono. C'era coso Claudio, ne ascolto, c'era, ma sta guardando la partita. Papo G, già ci sentiamo, ciao. Ciao ciao. Che io sono Antonio. Ciao, buonasera. Buonasera a te Franco. Allora, tutto a posto, finalmente. Ti sento con un segnale forte. Tutto a posto, ho sistema, ero a fare un lavoretto. Ho finito adesso. Cabba, pizzuga. Cosa sai che tu sei in hobby? No, non lo so. 2,50 se... vabbè, già va bene, sto facendo con 5 watt, 10 watt. Cabba, è il segnale più forte che ho, il supercio mio. Anzi, quello l'altro forte è quello di Luca Flipper. Che è quasi così. Anche che sono tebiate. Lo segnali. Sei fortissimo, ti ho detto. Che sei più forte di Luca Flipper, sei qua. Vabbè. Ma questa è una radio pure, non è un giocattolo. È un gioco, ya. Gaba. Andava. Anche dai che ti do un rapporto di segnale a vedere. 1, 2, 3, prova. Ora te prova com'è? Da sì qua. Quanto che ho lasciato il coso attaccato? Che cosa? Lock, mi sono dimenticato il cavano e non ti ho compreso. Quanto sono lì? 9,40. Cappa, tu sei 9,40, bighi di 9,50, voglia e va bene. Ma io sto scendo anche con 10 watt, 20 watt modulati. Sì, già lo so, buia. La radio è buona, va bene. Una cannonata, qua c'è le MC60. Cappa, si sente. Ma voi si intende. E allora tu? Almeno questi qui ci sono radio, non baracchini. Già lo so già. C'è una cannonata in occhio in casa, sì. Il sugruccio mio. Però te da di plastica, hai visto che funzionava? Sì, no, già è buona, già, è inutile che stiamo lì a girare. Ma sì che ma non ne ha mai fatto cavolate. Ma tu dammi un secondo che mi tolgo i pantaloni, mi tolgo i pantaloni, tu un paio di secondi. E la cappa, vai. Sì, andava. E beh, a tu. Sì, sono qua. Oggi vieni da tu, ragazzi, stavo facendo un lavoro lì. Era usci, sono entrato poco fa. Cappa, stai facendo un lavoro? Stavo controllando una cella. C'è la frigorifera? Cappa. Ma ce l'hai qualche amico ogni tanto che ti chiama, no? Sì, ogni tanto chiamo. Ogni tanto vado a fare qualche cosa io, lo so. Beh, non ci sto mai fermo, se cosa ti vedi. Fai bene. Il camper, all'estremo, per l'estate. E il camper, avevo sistemato gli ugili della cucina, che erano costruiti. Io ho pulito gli ugili, ho pulito tutto, è pronto a uscire. Adesso devo cambiare il parabrezza anteriore. Cosa ti è successo? Praticamente una pietra, un camion me l'ha spaccato. Però me l'ha pagato, non c'è problema. Lei cosa hai fatto? L'hai bisciglindo? Cosa hai fatto? No, l'ho suonato, ce n'è accorto, si è fermato e me l'ha pagato. Ma onesto, dai. Sì, vabbè, l'ho preso in seconda mano, anche perché non lo trovavo nuovo, capito? Non li trovi più i pezzi, quel della tipo parabrezza, questa cosa non la c'ha più blu. Non l'ho fatto. Ma è vecchio modello, capite, per quello. La sacciappa, ma pure ha vulginato. Sì, vabbè, io l'ho trovato usato, 80 euro. Buona, chi te lo piazza? Ma volevo portare lì in cose, via Pascoli, ve lo faccio fare, 50 euro a piazzarlo ed è a posto. Ma no, male, ma loro non ne avevano, così ti pigliavano un pedidina. No, loro non ne avevano, erano ordinari, da fuori costava 1200 euro. Questo è un casino, come paravrete. Un casino, sì. E invece in questa maniera sono riuscito a recuperarlo, meno male, va bene. Schiappa. Hai fatto bene, hai fatto. Atta, un po' di naso, me. 1200 più 50, fa tre conto. Peso greco mio. Cioè, per la brezza 1200 euro. E vabbè, i furgoni già se li fanno pagare. Ma quello è un parabrezza particolare, non le trovi le misure, è più grande del Ducato, capito? Il Ducato vecchio modello questo. Sì, sì, ma è quello che non è neanche turbo il tuo. No, è 2005 aspirato, ma cammina, non è che sia veloce, però cammina cammina bene, nella salita va bene. Vabbè, se fosse stato turbo sarebbe stato meglio, ma adesso devo venderlo questo e devo prenderne uno più piccolo. E comunque non hanno mai problemi con i motori lì, sono abbandonati. Allora prima questo lo mangiano male. Poi sono indistruttibili. E poi sono fatti proprio, è un bel pesante, è 6 metri. Cosa è? È lungo 6 metri per 2 metri e mezzo. Domani, 5 posti letto, cucina, bagno, tutto, beh, doccia, caldaia, condizionamento, tutto. È una cosa grande. Hai fatto bene, hai fatto. È bello. L'ho usato quest'estate, sono riuscito a Sarutta, quando prima di succedere questo casino che è successo nel 2019, l'ho fatto girare un po' in costa, mi sono divertito. Voglia, hai fatto bene, hai sei fatto la vacanza. Allora, l'altra volta l'ho preso, l'anno scorso mi pare, l'ho preso 2 giorni, ma sono andato lì nella zona di Badesi, a Piccà. Hai fatto bene, hai fatto. Io ho 8 mogliere, ando, e mi gira di un mondo. No, mi stavo giocando da rasura, perché lei era fuori dalla figlia. L'ho preso io, con amici, pescatori che fanno gare, lo stesso. Eravamo in 4. Hanno fatto una bella rossita da Rugamba, poi siamo buttati a Piccà e siamo rientrati a Buio di Luidì. Hai fatto bene, sei in pensione, goditela. E gli ero grido, che me la godo. Tanto nella vita non è niente, mangi, bevi, tre frighi, cosa cazzo conservi qua, là. A me mi fate ridighi, sì, chi si sentirò che fate queste cose. Il padre, guarda, il padre dell'amico mio, sai cosa ha fatto? Quando siccome allora già lo sa, si andava a 55 anni, si aveva i contributi a posto. Quando gli ha detto così, se n'è andato, basta, finito, non ha più lavorato. Gli ha detto, io non devo più lavorare, non lavoro più. Cosa faceva lui? Tutte le domeniche o il fine settimana e cosa, sempre in gita era. E sarà goduta così fino a morire. Ha fatto bene, ha fatto cosa. Detto nella vita non abbiamo niente, oggi ci siamo, domani non si sa, quindi meglio goderci subito. E già non credo già, cosa sta in chi vi ha menzionato, per carità. Allora, vai, cazzo, da un luogo, ti fa una beccata, dopo che andrà sul luogo, fa una sagosa. Uno non è pensionato, deve cercarsi le cose da fare, non mi possono dire che non... è tanto vero, o ti dedica la pesca, o ti dedica questo, o ti dedica quest'altro, ma sempre che cosa la va, ripeto. E si conferma, e si conferma, e così tu. Ma io già ne ho da fare, se ne voglio fare. Quando vai, venite qua. Quando ne voglio, quando vado a giocare non faccio nulla. Vado a va in campagna, e adesso c'è da tagliare erba, la va, ma non posso nulla ancora. Lei va, non mi si che entra. Sì, te la tagli. piano, va giù il trattorino, l'attacco, buon che moto, mi boccia c'è più dagli enti. Un bel manna a campagna. Aspetta. Ce n'è da fare, c'è una casa di due piani, piano di sotto e piano di